stasera soprattutto sarà la volta del debutto dell'Italia. Ci sono due ipotesi, per la verità, sulla formazione azzurra. C'è una quasi unanimità sul fatto che i due esterni saranno rispettivamente Zambrotta a destra e Criscito a sinistra, e c'è invece la versione Gazzetta dello Sport secondo cui sarà invece Maggio a giocare a destra e Zambrotta a sinistra. Insomma, questa è l'unica variabile possibile, a quanto si è saputo sino ad ora, a meno che poi Lippi non spiazzi tutti. Tra poco c'è l'intervista, anzi c'è, tra poco vi daremo il flash di intervista canonica, contrattuale al TG1 delle 13.30 per sapere se per caso, cosa che escluderei, si è sbilanciato su questo punto. Di sicuro è che stamattina l'Italia ha dovuto annullare l'allenamento previsto per maltempo, perché piove, fa freddo, e quindi, anche se è da un'altra parte, io chiedo a Fabio Tavelli dallo studio centrale di Sky Sport 24 a Johannesburg com'è la situazione meteorologica per l'Italia. Buongiorno, guarda, la situazione meteorologica me l'hanno raccontata stamattina Alciato e Veronica Baldaccini ed è brutta, perché piove e pioverà tutto il giorno. Le previsioni non hanno sbagliato. A Cape Town anche la settimana scorsa c'erano stati 3-4 giorni di pioggia intervallati da un paio di giorni di sole, proprio quando la perturbazione era salita da Cape Town fin qui a Johannesburg per il giorno dell'apertura. Qui però non ha mai piovuto, oggi qui è una meravigliosa giornata di sole, molto ventosa, molto fredda questa mattina. Adesso si può stare anche con la giacca all'aperto, però cioè, chi sta guardando la televisione o chi ha visto qualche immagine ha visto, insomma, che il Soccer City Stadium è molto ben soleggiato, e devo anche dire non pienissimo, nel senso che c'è qualche seggiolino vuoto, e vuvuzela abbastanza tranquilla.